Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Erano in quattro, sono rimaste due. La prima, il Milan in maniera perentoria, approfittando nel modo migliore anche della presunzione dell'Inter, a cominciare dalla formazione. La seconda, cioè il Napoli, in modo assai più avventuroso, fortunato, ma alla fine a suo modo efficace. Milan-Napoli dunque sembra il duello a distanza destinato a decidere la stagione a questo punto. A distanza perché non c'è più confronto diretto, li ha vinti tutti e due il Milan, e questo da un lato può significare che il Milan è superiore nel confronto diretto, ma dall'altro vuol dire che il Napoli ha fatto più punti escludendo i confronti diretti, quindi anche questo è un dato su cui riflettere. Dicevo che non c'è più confronto diretto e che soprattutto questo è un duello a distanza perché con la sfasatura oraria da diritti televisivi, anzi da doveri televisivi, anzi da schiavitù televisiva, da qui all'ultima giornata, esclusa l'ultima soltanto, giocheranno a rincorrersi. Nel caso di domenica prossima comincia il Napoli alle 3 del pomeriggio a Bologna e se riuscisse a vincere, cosa non facilissima senza Cavani, squalificato, se riuscisse a vincere arriverebbe a pari punti col Milan, che a quel punto dovrebbe ripartire da zero in classifica la sera, qualche ora più tardi, a Firenze in Fiorentina-Milan. Sono tutte suggestioni, perché poi magari invece va diversamente. Come è andata diversamente rispetto alle previsioni quest'ultima giornata? Perché La squadra che si pensava che era certamente in miglior salute era l'Udinese, si pensava che riposando riprendendo, ricostituendo un po' di energie dopo quella lunga volata che durava dal 20 dicembre, grosso modo una sconfitta all'Olimpico con la Lazio, da allora 10 vittorie e 3 pareggi, si pensava che potesse rilanciarsi ancora, invece l'Udinese è proprio caduta e quindi saluta evidentemente questa lotta a cui insomma è stata iscritta d'ufficio in un certo senso, ma non ha mai detto di voler partecipare a pieno titolo. Ha fatto certamente più sensazione la sconfitta dell'Inter. Non ha fatto minimamente sensazione il licenziamento non degli Orossi, ma insomma il licenziamento di Cosmi e il ritorno di Rossi, per via che fin da 5 settimane fa, quando avvenne, perlomeno chi ascolta questa trasmissione era stato puntualmente avvisato: guardate che Cosmi va, però la specialità, cioè Cosmi arriva, ma la specialità vera di Zamparini non è licenziare l'allenatore, è riprendere il precedente. 5 settimane in fondo bisognava dargliele, povero Zampa, no? Perché oltretutto c'è stata anche una sosta internazionale, quindi insomma 4 partite era il minimo per prendere una decisione di questo genere. Da notare che, e qui cominciamo con le statistiche di Franco Piantanina mentre voi vi prenotate per i vostri interventi in diretta, da notare che questa è l'ottava volta che Zamparini richiama in corsa l'allenatore esonerato, quindi capite bene che non ci voleva sto grande intuito per indovinare, comunque sin dal primo minuto. A Palermo la sorte di Rossi era già toccata a Guidolin e a Qualantuono. 30esimo esonero di Zamparini dall'87, solo Ventura, Novellino, Prandelli e Guidolin hanno resistito con lui per una intera stagione, che non è male. Un'altra curiosità che invece è per Milan-Inter, poi ce ne sono altre ancora, questa non l'ho vista davvero e non l'ho sentita da nessuna parte: Cassano con Milan-Inter ha fatto gol in tutti i derby che ha giocato: Bari-Lecce, Roma-Lazio, Real Madrid-Atletico Madrid, Sampdoria-Genova e Milan-Inter. Era chiaro che per festeggiare doveva come minimo levarsi la maglia e poi tirare una scarpata prima che passava, no? Sennò non sarebbe stato evidentemente lo scienziato che è. Cominciamo a sentire un po' di voci. Il commento di Mazzarri alla vittoria, rocambolesca come minimo, di ieri del Napoli. Adesso niente, succede che fra qualche ora penseremo al Bologna, un'altra finale, facciamo la corsa come abbiamo sempre detto su noi stessi e cerchiamo di arrivare più in alto possibile. Alla fine tireremo le somme da tutti i punti di vista. Fa un bel calcio il Napoli contro una squadra che di grandi valori, una squadra importante, organizzata bene, anche oggi a livello di prestazione credo non ci sia dubbi che il Napoli ha meritato di vincere. Poi, come sappiamo e come abbiamo visto anche su altri campi, questo è un campionato contraddistinto a volte da episodi che possono condizionare tutta la gara. Non si può arrivare secondo in classifica e magari si può arrivare anche a vincere un campionato, io a Mazzarri lo auguro, ma Non, i risultati non portano evidentemente soprassalti di pudore, nel caso, perlomeno nel caso di Mazzari. Devo dire che una notizia di giornata che mi ha molto stupito è l'assegnazione anche a Mazzari del premio Prisco, il premio Peppino Prisco, che è un premio che ha un fior di giuria. Che avviene a Chieti tutti gli anni, avviene a Chieti, il presidente di giuria è Sergio Zavoli, i giurati sono Gianni Mura, Italo Cucci, Giampaolo Ormezzano e altri, hanno deciso di conferire per le rispettive categorie questo premio a Campedelli, presidente del Cesena, e va bene, a Di Natale dell'Udinese, e va bene, a Walter Mazzari, e secondo me va bene bene, perché non, questo premio non è un riconoscimento ai meriti tecnici, e Mazzari li strameriterebbe, non meriterebbe, ma il premio Peppino Prisco è intitolato alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Boh, io credo che nemmeno a Forcella, insomma, si riesca a trovare particolarmente simpatico Mazzarri. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Credo che lo sfogo di Lotito ieri dopo Napoli l'abbiate, insomma, vi sia già capitato di sentirlo, e poi non abbiamo predisposto una simultanea, quindi potrebbe darsi che non fosse opportuno. Andrei su Storari, perché le dichiarazioni che ha rilasciato ieri sera Storari dopo questa strepitosa prestazione sua, buona, ottima quella della Juventus, ma strepitosa la sua, come quella di Grosso d'altra parte, mi pare che valga la pena di essere riascoltata. Ho saputo tardi, però sono cose che succedono. Io mi immagino sempre di dover giocare, quindi, anche perché se uno pensa di andare sempre in panchina, poi è come se andasse con la testa in vacanza, quindi cerco sempre di essere pronto. Oggi l'ho saputo e mi alleno bene per questo, insomma, per giocare bene, per giocare la domenica. Poi se ho giocato bene sono contento, non penso di essere presuntuoso, però da un po' dall'altro anno, da 2 anni a questa parte, penso di non aver fatto contenti tanti tifosi di squadre avversarie, quindi questo mi fa piacere. Io faccio il mio lavoro, ci ho messo tanto per arrivare fino a qua, ho messo tanti sacrifici, ringrazio tutta la mia famiglia, ringrazio in particolare mia moglie che mi sta vicino anche in questi momenti che per me sono difficili, perché non giocare vuol dire tanto sacrificio e tanto nervosismo. Beh, questa è una sintesi, comunque non è mandata a dire sicuro Storari, come è giusto che sia per un atleta di 34 anni che, insomma, negli ultimi 2 anni ha dimostrato grandi cose. Tra l'altro lui è romanista e lo scorso anno ha tolto lo scudetto alla Roma, parando le mosche con la Sampdoria, in Roma Sampdoria 1-2, quella dei 2 gol di Pazzini. Quest'anno, sia pure in una partita molto meno importante, si è ripetuto, ma soprattutto direi che non ci sarebbe mai stata nel secondo tempo di ieri sera la vittoria della Juve se nel primo tempo Storari non avesse tolto di porta almeno un paio di palloni, direi quelli di Vucinic e soprattutto di Totti. Non facile nemmeno la parata su De Rossi. L'avvocato Paolo Cecchetti scrive, seleziono tra le tante mail già ricevute, un elogio al guardalinea, e dice: per il gol di Matri ieri sera a Roma bisognerebbe dare atto della bravura del guardalinea, che ha colto in una frazione di secondo la posizione di Juan e di Matri che si stavano incrociando. Questa è stata una vera finezza che andrebbe celebrata, a dimostrazione del fatto che arbitri assistenti a volte sanno essere campioni veri, né più né meno dei calciatori in campo. In effetti è stata davvero una decisione difficilissima e perfettamente azzeccata, a differenza di altre, perché può capitare. A proposito di Roma-Juve, mi fa notare sempre Franco Piantanida comunque la tradizione recente che è nettamente favorevole alla Juventus in casa della Roma, perché la Roma non batte la Juve all'Olimpico di Roma da 7 anni. L'ultima volta fu un 4-0 del 2004. Da allora un pareggio e 6 vittorie della Juventus, come sono già 6 i gol di Matri in 9 partite in maglia bianconera, e mi sembra comincia a essere un numero interessante. Poi i numeri più incredibili sono quelli che riguardano l'ultimo quarto d'ora del Napoli, perché in quegli ultimi 15 minuti il Napoli ha già segnato la bellezza in campionato di 15 gol, di cui 10 decisivi. Se le partite del Napoli, cioè se le partite finissero all'80esimo, dunque, per assurdo che possa essere il ragionamento, il Napoli avrebbe 46 punti e sarebbe 8º. Quanti ne ha fatti in quegli ultimi minuti è davvero impressionante. Effettivamente è stata una giornata piena di sorprese, scrive Omar da Bologna, a parte le due partite segnalate dalla SNAI. Sì, non c'è stata davvero nessuna sorpresa, né in Brescia-Bologna, non dico in Verecondo, ma quasi, i primi 10 minuti abbastanza, e altrettanto in Verecondo o quasi, lo 0-0 di Chievo-Sampdoria. Più in Verecondo ancora, però, l'aggressione di cui pare sia stato vittima, ma insomma è qualcosa più di un pare, il difensore del Bari, Rossi, Marco Rossi mi pare, sì, parmigiano di nascita e di crescita calcistica, al termine di Parma-Bari, da parte di 2 o 3 giocatori del Parma, tra cui certamente Morrone. Perché? Beh, perché il Bari è ultimo in classifica, ormai non si può più salvare, e quindi nella logica malata del nostro calcio, perché non si deve... No, non si sarebbe dovuto mettere a 90 gradi, no? Lui parmigiano anziché fare il professionista, come lui Rossi ha rivendicato a voce alta nel corso di questo, non so se all'inizio o alla fine di un alterco che ha contemplato anche lo scambio, pare di qualche colpo. C'è un'inchiesta comunque, anche qui mi pare che in quest'ottica il primo ad esprimersi, perché sono sempre gli intellettuali che tracciano la via, il primo ad esprimersi era stato Cassano, anche in questo caso, perché dopo Milan Bari si era avvicinato a Gilet, il presidente del Bari, il portiere del Bari, insomma, e gli aveva chiesto in poche ma sentite parole chi gliel'avesse fatto fare di impegnarsi così, no? Contro una squadra che deve vincere il campionato. Rossi, comunque, Marco Rossi, questa non è aria quest'anno, perché è quello che ha preso il cazzotto da Chivu, è quello che ha preso il cazzottino, comunque la manata violenta di Ibrahimovic, ieri l'ha menato pure perché ha fatto il suo dovere a Parma, può darsi che non sia la sua annata più fortunata. Pietro ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Gerassini, mi fa dire qua alcune cose. Io sono un tifoso della Lazio, un pochettino sono immufolito sportivamente parlando, ovviamente. Allora, io adoro Napoli perché è una città meravigliosa, sono romano e adoro Roma e come tutta l'Italia, però sportivamente e calcisticamente sembra che tra la Lazio e il Napoli ci sia un contenzioso che risale agli anni 60. Lei forse, non so se se lo ricorda, ma un certo giocatore della Lazio, Seghedoli, si lottava per la promozione in Serie A, segnò un gol regolarissimo, soltanto che la rete della porta napoletana era bucata, il pallone uscì fuori e l'arbitro inopinatamente dichiarò che non era gol. Punto. Nel 72-73, all'ultima partita, Lazio, Juventus e Milan stavano alla pari, la Lazio fu aggredita prima di entrare allo stadio, poi accadde qualche cosa, un'aggressione e anche diciamo il Napoli non aveva nulla da perdere e fece di tutto per batterci, all'ultimo segnò. Ieri un gol regolarissimo non concesso. Ora io mi chiedo cosa abbiamo fatto noi laziali ai napoletani e per quale motivo la Lazio non viene considerata a livello mediatico come è considerato il Napoli, la Roma, il Milan, l'Inter, la Juve. Sembra la squadra dell'Afghanistan. Io protesto per questo, chiedo scusa se mi sono accalorato, no. Però questo io amo lo sport, ma deve essere no, ma lei Pietro certo, lei si è accalorato, si è sfogato, che tengo comunque a dire che il suo sfogo è stato nettamente più comprensibile, meglio articolato e meglio espresso rispetto a quello di Lotito, del suo presidente, per esempio. Quindi va bene così. Adesso speriamo non ci siano troppi imitatori. Cristian Genova, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io sono un tifoso del Bologna. Volevo chiederle, alla luce della prestazione squallida del Bologna dell'altro ieri con il Brescia e dell'arbitraggio di ieri pro Napoli con la Lazio, per la partita di domenica prossima, cosa bisogna aspettarsi? Io direi che c'è una vittoria del Napoli scontata come niente. Scontata come niente, ci andrei pianino, anzi, proprio perché il Bologna già, come dire, non si è battuto strenuamente a Brescia 8 giorni prima. Per un fatto di decenza, ma anche magari di occhiate che potrebbero cominciare a dare gli ispettori federali, io credo invece che si impegnerà, che gioca poi tra l'altro sul suo campo, che sia una cosa diversa. Io credo che bisogna sempre distinguere tra motivazioni e bisogna sempre tenere conto delle motivazioni rispettive. È ovvio che se il Brescia si gioca, il Brescia che si gioca la casa, insomma, che si gioca una delle ultime partite che può vincere per provare a restare in Serie A, mentre dall'altra parte trova un Bologna che ha fatto molti, ma molti più punti sino a qui, con pieno merito, di quelli che mai avrebbe pensato di fare, e che è in una specie di limbo di classifiche, perché non rischia più assolutamente di retrocedere, ma non può nemmeno ambire a traguardi superiori, è fatale che il Brescia abbia molte più motivazioni del Bologna. Detto questo, se stai 2-0 al nono minuto e su tutti e due quei gol diciamo che l'opposizione della difesa del Bologna non è esattamente eroica, un minimo di puzza di bruciato non puoi non sentirne. Domenico, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno signor Garattini. Secondo lei, una mia idea, non è sembrato troppo presuntuoso nel schierare la formazione Leonardo troppo offensiva, addirittura con tre attaccanti più Snyder dietro le tre punte, ecco, considerando che i nazionali le ha appena avuti due giorni prima e mi è sembrato anche scadente la forma fisica. Grazie, l'ascolto per l'altro. Sì, anche secondo me molto presuntuoso. Molto presuntuoso perché questo era un modulo alla Mourinho, ma un modulo alla Mourinho in cui, tanto con Mourinho lo scorso anno, anche perché insomma, questa squadra era più motivata, perché aveva aveva tutta un'altra salute psicofisica, non ha avuto le disavventure che ha avuto fino adesso, ma poi soprattutto la differenza fondamentale, quindi intendo dire che gli attaccanti rientravano di più, si sacrificavano di più eccetera, a parte poi certe partite in cui si sono sacrificati in una maniera incredibile come Eto'o a Barcellona, ma lì poi erano motivazioni diverse, erano appuntamenti stra speciali, ma c'è una differenza fondamentale che giocare con una squadra così sbilanciata, al di là della casualità di prendere un gol dopo 44 secondi, ma giocare con una squadra così sbilanciata, avendo come coppia centrale arretrata Samuel e Lucio, soprattutto Samuel, è un discorso. Giocare con Chivo e Ranocchia, con tutto rispetto per Ranocchia, ma insomma, giocare con Chivo, comunque, la coppia Chivo-Ranocchia mi sembra tutto, ma tutto un altro discorso. Antonello di Salerno, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei rispondere subito al simpatico tifoso laziale. No, Antonello, se lo levi dalla testa, perché se cominciamo così, io se vuole chiederò al centralino di metterla in contatto personalmente con lui, perché sinceramente... Volevo sempre intervenire in merito. No, certo, in merito va bene, ma... Come ha detto che cosa hanno fatto i tifosi napoletani e i laziali, loro non ci hanno fatto nulla. Soltanto che ieri c'è stato un gol regolare, che non, come spesso succede, la palla era entrata e l'arbitro e il guardialine non se ne sono accorti, però va detto anche che un minuto dopo c'è stato il meritato gol della Lazio con un'autorete di Aronica. Sì, sì. Quindi non penso che questo abbia inciso assolutamente sul risultato. Ha inciso di più il tuffo di Cavani, su questo non c'è dubbio. Ma no, il tuffo di Cavani per me quello non è un tuffo, se ne vedono tanti di tuffi in aria, ma quello non è un tuffo. Mi meraviglio che lo dica una persona così attenta e così professionale come lei. Direttamente Antonello, lui si è proprio tuffato, sa perché? Perché il contatto c'è stato, infatti secondo me ha fatto bene a dare rigore, ma questo non toglie che da come lo tocca Biava, lui che non aspetta altro da dietro, nel dubbio carpia, no? Nel senso di carpiato, e soprattutto l'errore arbitrale grave non è quello dell'assistente sul gol di Brocchi, perché quanti ne abbiamo visti e ne vedremo ancora così. L'errore grave è dell'arbitro ad espellere, lo sto rivedendo in questo momento, ad espellere Biava, perché a parte che c'è un altro avversario che sta chiudendo, ma insomma io credo che per quell'episodio lì il rigore avanzava, non bastava. Andrea Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini, parto da un antefatto. Anche lei. Allora, sospendono le cose. No, parlavo. Ma non, mi raccomando che non sia un gol del 72 come. No. 62. Sto parlando solo della sospensione delle scommesse su Chievo Sampdoria. Io ieri sono andato allo stadio e dopo 9 minuti mi sono accorto che sarebbe finita 0-0. Mm. Uno. So che Morrone ha preso, diciamo così, a sportellate Marco Rossi. Adesso non ho visto le immagini, ma dopo Parma-Bari, perché il Bari ha fatto la propria partita. Certo. Il Bologna dopo 10 minuti è sotto di 2 gol. 9. Ah, grazie. Sì. 9. Allora, non si può porre rimedio a queste cose inserendo una sorta di finale a calci di rigore, chi vince la partita normale 3 punti, chi vince calci di rigore 2, chi perde 0. Io, guardi, una sorta... sì, io per queste mancanze di professionismo inserirei un, invece che calci di rigore, calci da un'altra parte, secondo me, per un fatto di serietà e di rispetto. Non in, insomma, ci sono fior di campionati in Europa, a cominciare da quello inglese, in cui queste cose non succedono nemmeno all'ultima giornata senza nessun bisogno di cambiare i regolamenti. Da noi cominciano a succedere a 8 giornate dalla fine. Bisogna risanare il calcio, la mentalità che c'è nel calcio ed eliminare troppi faccendieri che ci... A quel punto si può sperare di migliorare l'humus e quindi di cambiare il costume. Questo almeno è un'opinione. Riprendiamo nell'ascolto di qualche voce domenicale, per esempio quella del portiere del Bari, Gillet, a proposito, credo, anche di questa rissa finale in spogliatoio a Parma. Io con i miei compagni andiamo in campo per fare il massimo, per vincere le partite. Se riusciamo bene, se no pazienza, però a me queste cose non piacciono, cioè non esiste. Calcio è uno sport e niente, chi è più bravo vince e finisce la partita. Quando fischia l'arbitro ha finito tutto lì. Io a me queste cose veramente non ci do peso, non le voglio nemmeno vedere, ci passo a lato e non mi interessano. Un clima esasperato, penso, perché giustamente la permanenza in Serie A comporti tante cose e sicuramente il Parma pensava di fare un boccone oggi con noi, però non è stato il caso e dopo è uscito tutto il nervosismo, però noi non ci stiamo e faremo il massimo fino alla fine. Come giusto che sia, come dovrebbe essere per tutti e come invece per tutti non è. E abbiamo cominciato ieri, quando ancora mancano 8 giornate alla fine. C'è Daniele in linea da Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Innanzitutto volevo dire una cosa, che se il premio Prisco si potesse assegnare anche a un non allenatore, lo darei a Luisito Suarez, soprattutto per la simpatia sportiva, che soprattutto capacità sportiva anche ne ha da vendere. E ricordo l'intervento che aveva fatto nella vostra trasmissione l'anno scorso, secondo me è stato di un'altra categoria. E poi chiamavo in difesa di Leonardo, sono interista e secondo me, come diceva il grande Luisito, un allenatore non deve fare danni. Secondo me lui danni non ne ha fatti, perché comunque secondo me ha messo quelli che doveva mettere in campo. Possiamo discutere la scelta di Pandev, magari da mettere Stankovic, però non è una differenza da poco comunque. No, è vero, è più bilanciata con Pandev in campo, però prendiamo gol dopo 40 secondi, secondo me un allenatore non può farci tanto. Sono situazioni che... No, su questo siamo d'accordo. Io poi le dirò che il trattamento riservato l'altra sera, ma non tanto dai tifosi, i tifosi fanno quello che gli pare e le loro coreografie che piacciono così tanto e di cui si parla per settimane e per mesi, è ovvio che poi si sentano protagonisti a loro volta, no? Che quindi vadano sempre oltre. Però per l'ennesima volta questo Gattuso che si permette di apostrofarlo in quella maniera, così, perché ha segnato dopo 45 secondi, allora gli passano i paraggi e gli urla a pezzo di avete capito cosa? Boh, insomma, io credo che questo non sia professionismo proprio. Allora, dato che capita sempre allo stesso, ma sempre allo stesso, che una volta è Jordan, una volta è l'arbitro, l'altra volta è l'assistente, l'altra volta è un avversario, adesso anche l'allenatore avversario, insomma, io credo che se davvero, ho letto stamattina che Gagliani ha riconfermato Gattuso anche per il prossimo anno, che giocherà ancora nel Milan. Io dico che se per caso questo giocatore, che ho sempre avuto in grande simpatia per la sua franchezza, la sua sincerità e anche la sua lealtà, sia pure così aggressiva, però che mi sembra un tantinello degenerato, dicevo, dovesse davvero andare a chiudere la carriera in Russia, beh, insomma, credo che il calcio italiano se ne potrebbe anche fare una ragione. Gian Pietro ha chiamato da Crema, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Ci eravamo sentiti dopo le marachelle di Krasic e ci sentiamo dopo il bel gol di Krasic. E niente, mi volevo... E fin qua siamo arrivati. Fin qua siamo arrivati. Volevo ricollegarmi un po' all'intervista di Storari che avete mandato in onda. In effetti il discorso è molto semplice. Il De Neri ci ha provato ad andare in sala stampa a dire se la giocano quando starà bene Buffon con Storari. Poi Buffon nella Juve, forse non solo nella Juve, se sta bene gioca lui e poi ti gioca tutto il mondo. Ovvio che arrivato a questo punto Buffon forse è un bivio, no? Nel senso, Buffon è la Juventus, ci sono dei top club a cui Buffon serve, uno su tutti il Manchester, quindi forse è arrivato il momento. Ma bisogna vedere se gli serve Buffon, se gli serve Storari, perché vede, io stamattina ho letto su, non so più su che giornale, ma più o meno su tutti, che la vittoria della Roma ieri sera della Roma, la vittoria della Juventus sulla Roma ieri sera è un'impresa con la I maiuscola, in particolare perché mancavano Buffon, Chiellini, e cioè, io quando ho visto che mancava, cioè, mi sono fermato lì, perché il fatto che mancassero Buffon e Chiellini non è un capito, non è una cosa che valorizza l'impresa. Ho l'impressione che con i Buffon e Chiellini di oggi, questo spieghi la presenza di Storari e della coppia Barzagli-Bonucci, spieghi perché al di là di quel passaggio a vuoto sull'incursione centrale di Vucinic, che insomma, peraltro una finta a Vucinic a cui abboccare si può anche concedere, ho l'impressione che non sia stato esattamente un handicap per la Juve quello di dover rinunciare in questo momento a questi due giocatori, ma lì si sa che va, che si può vedere in un modo come in un altro. Qualche altro commento da ieri, per esempio uno, perché dunque mi segnala il solito Piantanini, mi segnala che gli esoneri di Marino e Cosmi fanno salire a 12 il numero di allenatori già cacciati, 12 su 20 in stagione, attenzione, 13 con Colomba, che però fu esonerato due giorni prima del campionato, quindi insomma, o 12 su 20 o 13 su 20. Lo scorso anno furono 16, e quindi, dato che i record sono fatti per essere battuti, evidentemente c'è del margine ancora per arrivarci. Mi pare di aver sentito delle frasi del presidente del Genoa a fine Genoa-Cagliari che non promettono niente di buono per Ballardini. Le risentirei. No, soprattutto arrabbiato e deluso, perché una partita così non me la immaginavo neanche nelle ipotesi peggiori, per cui è stata la peggiore partita che abbia mai visto negli ultimi anni del Genova. Il Cagliari non ha fatto granché, ha fatto la sua partita con attenzione e con la voglia di vincere, questo ha fatto la differenza, noi eravamo ancora negli spogliatoi, forse lo siamo ancora adesso, e quindi questo ha fatto la differenza. Il Cagliari ha fatto la sua onesta partita, l'ha meritato ovviamente, anche perché se fosse finito 2-0 3-0 nel primo tempo avremmo meritato anche quel risultato. Aia, Ballardini, è bene che tenga, cioè, che non mandi troppa roba in lavanderia nei prossimi giorni. Ignazio De Vincenzo scrive: bravo Gillet, il meglio di un uomo, e vabbè, questo è uno slogan però che è carino, solo per questo il Parma meriterebbe di retrocedere. Beh, insomma, adesso meritare di retrocedere è una brutta cosa, non, magari si può sbagliare, certamente quei due o tre giocatori del Parma ieri hanno sbagliato in maniera molto grave. Credo che Cassano avesse detto a Gilles: se aveste giocato così tutto il campionato vi sareste salvati. Sì, questa è la versione di Comodo che è venuta dopo, in effetti, perché non so, lei attribuisce a Cassano ragionamenti che bisogna andarci piano per evitare di, come dire, di mancargli di rispetto in un certo senso. Stefano da Napoli, buongiorno. Grazie, buongiorno. Dica. Io mi lascio raccontare la mia gioia di ieri, quello che è successo a casa mia, sulla tavola è volata di tutto, sul quarto gol di Cavani. Poi tutti i commenti che sono stati dopo la partita, guardate, a me personalmente non ho manco guardato la Domenica Sportiva. Certo. Mi lascio raccontare questa gioia, perché ieri è volata una tavola che pesa due quintali in cucina. Sì, tutto qua, questo volevo raccontare. Grazie Stefano, ma no, io vi auguro non sia l'ultima tavola che vola, se è per quello, però diciamo che ieri, cioè, è andata, cioè, è normale che dopo non guardate neanche la Domenica Sportiva, la novantesima, eccetera, quando, no? Quando semmai quello che c'è, insomma, quello che poteva essere in bilico è stato giudicato, valutato in una certa maniera, e in quell'altro modo invece che all'indomani intasate i centralini. Ma questo, in questo tutto il mondo è paese, non è soltanto Napoli. Parlo di tifo, Mazzarri è un altro discorso. Claudio Udine, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Volevo solamente farle notare una cosa, io sono tifoso interista, non mi aspettavo niente di meglio, di più di quello che è successo l'altra sera, perché con la difesa che abbiamo, voglio solo constatare questo: dopo 30 secondi Maicon è fermo nella nostra area di rigore, fermo, immobile, Era già stanco o... No, l'ho notato anch'io, si è letteralmente piantato mentre l'azione va avanti su Robinho. Lui prima è ovvio che inchioda per provare a mettere Robinho in fuorigioco sul triangolo di Gattuso, no? E va bene, però poi una volta che l'azione continua lui effettivamente non si è più mosso, e da lì in avanti direi che si è mosso pochino. Quello però che mi ha impressionato di più in negativo, sì, anche Maicon certamente, ma è stato Eto'o in particolare, perché Eto'o è uno che, anche Maicon è un grande giocatore ed è un campione esattamente come Eto'o, più o meno come Eto'o, però Maicon è tutto l'anno che fa un po' fatica. Eto'o quest'anno è stato certamente l'uomo che più ha fatto per l'Inter, che più ha messo oltre a segnare, che più ha, insomma, ma anche dal punto di vista dell'impegno. E l'altra sera il fatto che un giocatore così sbagli una partita in maniera così clamorosa è abbastanza significativo, perché oltre a essersi mangiato un gol quasi come quello di Torino, quasi, ma insomma siamo lì comunque come gravità, ed era un momento della partita in cui la partita cambiava ancora, e come se cambiava verso fine primo tempo. Il modo in cui lui qualche minuto dopo l'inizio della ripresa perde un pallone sulla tre quarti in attacco, e da lì parte l'azione del 2-0 del Milan, mi è sembrato altrettanto grave, cioè non robe da Eto'o, ecco. Francesco, Udine, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Non voglio entrare molto immerso nel calcio, comunque sei interista da sempre: Sarti, Bugni, Spacchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Domenghini, Mazzola, Cappellini, Corso Suarez, Zahir, Peirò. Da questo punto di vista abbiamo vinto tutto, però mi spiace quest'anno che lo scudetto lo vince il Milan. Perché? Perché hanno già deciso politicamente così. Dopo volevo fare una domanda all'ascolto in radio, no? Scusi, già che hanno deciso politicamente l'altra sera, faccia così, lei è partito bene, e dato che, insomma, resti lì un momentino in attesa, che sentiamo come va per le strade nel frattempo. L'implacabile Franco Piantanide segnala che le tre partite che la Juve ha giocato quest'anno senza Chiellini: Bologna-Juve 0-0, Milan-Juve 1-2 e Roma-Juve 0-2. Francesco da Udine ci stava dicendo che il campionato è già deciso politicamente, mi pare, no? Sì. Sì, perché lei dice che non è così? No, io sto aspettando che lei mi faccia un esempio, per esempio a proposito dell'altra sera. Mi faccia qualche esempio di politica dell'altra sera. D'accordo, però prima di parlare di questo, se mi concede un brevissimo spazio, nel senso che, visto la capacità tecnica della sua trasmissione, no? Vorrei parlare a nome di tutti i motociclisti, visto che anche Rossi è tifoso dell'Inter, no? A nome di tutti i motociclisti. Di tutti i motociclisti, mi chiedo come mai su Radio 24, no? Non c'è una trasmissione che parli di moto, di tennis, no? Nel senso che abbiamo campioni del mondo a 17 anni e non si dice niente. Francesco, poi non si dice niente. Ha ragione. Guardi, noi faremo. Dobbiamo rivoluzionare il palinsesto. Cominciamo a fare un'inchiesta sull'uso del palloncino nelle strade, no? Soprattutto nelle ore post-prandiali. E poi magari, appunto, come ha detto lei, motociclismo, tennis e soprattutto ragioni politiche per cui l'altra sera è stato politicamente orientato il derby Milan-Inter. Vittorio, chiamato da Roma, buongiorno. Dica. Mi sente? Ma forte e chiaro. Perfetto. Ma sono già preoccupato. Senta, io non volevo polemizzare assolutamente sui suoi giudizi sulla partita Napoli-Lazio, però insomma mi aspettavo magari anche che desse merito al Napoli di tanti torti subiti durante il campionato. No, io non avendo visto tutti questi torti subiti durante il campionato, mi è sembrato di trattare tutti questi clamorosi torti che il Napoli ha subito e di bilanciarli con questo discreto trattamento di favore che ha avuto ieri, involontari gli uni e involontario l'altro. Secondo me è stata un po' sfortunata, perché meritava, per come è impostata la partita, indubbiamente era valido. Però senta, io volevo fare un'altra domanda. Sì. Come vede lei questo finale di campionato, a vantaggio del Milan o a vantaggio del Napoli? Secondo me gli incontri che devono fare. Secondo me il campionato lo vince il Milan, e non solo per i tre punti, di vantaggio. Tutto qua. Gerardo, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dì. Senta, io dalla Gazzetta, dai tifosi laziali che ho qua a Treviso, colleghi, e sentendo anche Lotito che si lamenta, io vorrei che lei è una persona attenta, attentissima a certe cose. Vogliamo analizzare per caso le ultime 5-6 partite della Lazio? No, e vedere no, di quante sviste no. arbitrali. Gerardo, non ci pensiamo nemmeno, non ci pensiamo nemmeno. Ha una infinità di programmi dove fare questa lista della spesa e questo inventario dei torti e delle ragioni. Questo sinceramente ce lo risparmi. Mentre noi sentiamo Nicolino Filippone, che ovviamente non sarà di pessimo umore oggi per via della rimonta do Napoli di ieri, e sentiamo che cosa ha trovato per un 4 aprile. Sembra ieri. 4 aprile 1954. A San Siro va in scena uno scontro scudetto tra l'Inter e la Juventus, che è anche una sfida in panchina tra due glorie della nazionale di Pozzo, campioni del mondo nel 1938. L'ex terzino Alfredo Foni, tecnico interista, e l'ex portiere Aldo Olivieri, allenatore juventino. I bianconeri si presentano a Milano da primi in classifica insieme alla Fiorentina, mentre i nerazzurri inseguono a una lunghezza. La Juve sbaglia però completamente approccio e cede il campo alla squadra di casa. Finisce 6-0 per l'Inter, trascinata dai suoi attaccanti Skoglund e Brighenti, autori di una doppietta a testa. E la goleada di San Siro inciderà sull'esito finale del torneo. L'Inter si laureerà per la settima volta campione d'Italia con un solo punto di margine sulla Juventus. Torniamo in compagnia degli ascoltatori. Io spero che Mariano da Genova non mi proponga un bilancio delle valutazioni arbitrali degli ultimi 50 anni. Vero, direi di no. Bravo, bravo Mariano, ringrazio di cuore. Io sono un tifoso interista che ha analizzato, non negli ultimi 50 anni ma negli ultimi due, sì, un po' di sconfitte, nel senso che mi è interessato capire come una squadra che secondo me, sarà perché sono tifoso dell'Inter, la vedo ancora tuttora la più forte in Italia, ogni tanto perde clamorosamente, ci sta ovviamente, però magari è fantacalcio, però quando la pressione mediatica sale tanto, l'anno scorso noi abbiamo perso a Torino e ci abbiamo perso pure quest'anno con la Juventus, e mi sembra un po' di capire una sorta di pressione del tipo dopo Calciopoli voi avete avuto un grosso vantaggio e quindi adesso in un certo senso dobbiamo pagare dazio, e quindi si perde. Un'altra volta quest'anno Leonardo è venuto ad allenare l'Inter e quindi in un certo senso abbiamo diciamo, rubato, abbiamo fatto un furto di questo personaggio al Milan, lo stadio era tutto contro e quindi in un certo senso anche lì abbiamo patito un po' questa pressione mediatica, psicologica, e abbiamo perso di nuovo in maniera abbastanza rovinosa, quindi senza appello. Volevo appunto puntare l'attenzione un po' su questo tipo questi aspetti un po' atteggiamento che ha l'Inter, sì. Sì, un po' paradossali, però insomma mi sembrano un po' tirati. Beh, Leonardo, insomma, tanto per cominciare, Leonardo era una persona libera, un professionista lasciato libero da un'altra società. Poi è vero che ci ha messo del suo per meritarsi, secondo me non si è meritato nulla, ma insomma. Per scatenare tutto quel livore da parte della tifoseria milanista, insomma, ci ha messo del suo, e alcune non pochissime dichiarazioni sue successive all'uscita dal Milan eccetera sono state poi erano fatte apposta per essere rinfacciate poi di fronte ad un cambio di panchina, così poi da lì al tradimento, da lì a Giuda, in un professionismo quello di oggi esasperato da una parte e pochissimo leale dall'altra, e vi ricordo il caso Bari-Parma, insomma, queste accuse sono francamente risibili, ma i tifosi vanno lasciati sfogare non soltanto da Tempo di Sport, anche con le loro simpatiche coreografie. Io penso soltanto alle giornate o alle nottate che devono aver investito per quella coreografia, e mi chiedo se non ci sarebbe magari il modo di impiegare in maniera più costruttiva il proprio tempo libero. Mi segnalavano una buona autocritica di Balzaretti a proposito di ieri. Balzaretti che insomma è stato forse l'inizio della frana che è costata il posto a Serse Cosmi. Sì, sono andata bene, ma sono qui per prendermi le mie colpe, per chiedere scusa prima di tutto ai compagni, perché insomma questa è stata una partita dove obiettivamente il responsabile maggiore della sconfitta sono stato io, e quindi mi assumo tutte le responsabilità, mi dispiace, chiedo scusa, ripeto, ai compagni, alla città intera, perché obiettivamente la partita è girata per quell'episodio e quindi sono l'unico responsabile di questa sconfitta, e mi dispiace, ripeto, per i compagni e per la città prima di tutto. È una grossa delusione, quindi però se c'è un responsabile sono io, quello sicuro. Paolo da Maserada sul Piave, che è un posto di transito almeno per me per tanti anni in passati, ma un posto molto molto gradevole, domanda, ma dica la verità, ma lei quanto si diverte a lunedì? Paolo, noto che lei le antenne le ha, perché effettivamente la risposta è non poco, facciamo così. Giovanni da Taranto, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Intanto le faccio i complimenti, va perché la trasmissione è sempre molto, molto, molto pacata e lei è molto tecnico quando parla di calcio. Io volevo, sono tifoso del Milan, ho sentito parlare poco di tecnica, proprio a dispetto della professionalità sua invece, ho sentito addirittura le ragioni di un'intervista che la metteva sulla politica, insomma adesso volevo invece fare un'osservazione se è possibile. Se acceleriamo un po' però. Sì, sì. Come tifoso del Milan io credo che ieri abbiamo visto una bella partita da Milan vecchi tempi, che giocava sulla velocità e sulla tecnica, e mancava un certo Ibrahimovic. Io temo che la coesistenza tra Fato e Ibrahimovic sia difficile. Non sia facile, bravo Giovanni, questa è una buona osservazione tecnica e non è il solo a pensarla a questa maniera. Io ho ricevuto altre mail che adesso non riesco a ritrovare e che volevo citare su questo argomento. Per esempio Andrea Vaccari scrive: è un caso che la miglior partita dell'anno nel Milan sia quella senza Ibra? Ma un po' come a Barcellona, con le debite differenze. È una riflessione che si può fare anche questa, senza dimenticare tutto quello che Ibra ha dato al Milan nel girone d'andata di questa stagione. Grazie a Filippo Aureggi in regia, a Franco Piattanini in redazione, a tutti voi che siete intervenuti, e buon pomeriggio, a domani.